Non nascondo la mia passione per il ballo e la musica, passione che prima di conoscere Cristo mi spingeva a frequentare le sale da ballo ogni domenica e, nei mesi estivi, anche durante la settimana. Dopo la mia totale arresa a Dio ho smesso questa abitudine, perché non trovavo in quei luoghi un beneficio alla mia nuova natura spirituale ricevuta da Dio. Però il ballo è sempre il ballo, e il suo fascino mi attira anche oggi come ieri, con la differenza che ho visto in esso un'immagine della vita, grazie alla quale sono in grado di trarre delle riflessioni utili ed edificanti. 1. Vivere è come ballare perché si deve ascoltare la musica della vita. C. È chi vede la vita come una condanna da espiare, una vita in colore e senza suoni. Invece la vita è una musica da ascoltare ogni istante. Vi sono gli uccellini che fischiettano di gioia. Vi è il vento impetuoso e quello che sussurra, l'impetuoso tuono e la dolce pioggerella. Vi sono i fruscii che si colgono in un bosco e il rumore delle foglie che si calpestano. Vi sono i suoni degli animali, quello del ruscello e della cascata. Che dire poi delle risate dei bambini, delle urla di gioia dei giovani, la voce flebile dei vecchi, il dolce sussurro dell'innamorato, il pianto di dolore e il grido di disperazione. Questi suoni fanno parte della vita di ogni essere umano e noi dobbiamo essere sensibili ad essi, sia per ringraziare il Creatore che li ha fatti, sia per piangere con chi piange, ridere con chi ride. Se non si ascolta ciò che ci circonda, se si rimane insensibili, si è dei mostri di autosufficienza oppure di insensibilità. Che dire poi della voce del creato? La parola di Dio afferma: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole. La loro voce non s'ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo. Salmo 19, 1 a 4. Sì, tutto parla, anche le cose inanimate, perché anche senza nessun suono annunciano meno o rivelano, diremo noi, meno la presenza di un creatore che con intelligenza e ordine ho creato e disposto ogni cosa. Come una scultura annuncia la presenza di uno scultore, così il creato rivela la grandezza e la maestà del suo creatore. Chi non ode questi suoni non può danzare nella vita, non gode quella parte di musica che lo rende felice. Quando frequentavo le sale da ballo, alcune persone non ballavano perché non sapevano ballare o perché si vergognavano, e nei loro cuori vi era tanta tristezza e invidia. Ma il ballo divino della vita è per tutti. Basta volerlo. 2. Vivere è come ballare, perché occorre innanzitutto essere in grado di danzare da soli. Vivere significa relazionarsi con il prossimo, e questo è possibile se prima si è in grado di relazionarsi con la vita stessa. Se con la sofferenza non sono in grado di avere il giusto atteggiamento, non potrò aiutare il mio prossimo. Se la gioia e il piacere hanno il potere di sedurmi, come potrò aiutare coloro che sono vittima della droga, del sesso, del gioco o dei dolci? Come non si può insegnare se non si è imparato? Così non posso ballare con il prossimo se prima non ho preso lezioni di ballo dalla vita. Spesso si dice che nella vita si balla, ma molti non stanno ballando. Stanno solamente saltellando in modo discordato su dei carboni accesi con l'intento di non voler soffrire. Ma chi non è disposto a soffrire non può neppure insegnare agli altri come vivere. Chi sono gli uomini e le donne che sanno ballare in armonia con la vita? 3. Vivere come ballare perché occorre sapere ballare in coppia. Si può ballare da soli come fa un single, ma evidentemente questo non è sufficiente dal momento che la maggioranza delle persone vuole ballare la sua vita con un partner. È bello ballare da soli. Ma non chi è paragone con chi ha realizzato di ballare armoniosamente con una brava ballerina. Anche se non è carina, ben fatta, o è esageratamente pesante, se vi è armonia, tutto diventa bello. Ho avuto occasione di ballare con ragazze di una certa stazza, con le quali però riuscivo a volteggiare nella pista con la leggerezza di una piuma. Che meraviglia! Una sola lieve pressione ai fianchi, e la ballerina seguiva il mio volere. Ero io che decidevo come ballare, quali passi fare, e lei, senza la minima resistenza ma con pieno abbandono, eseguiva il mio volere. Fra di noi non vi erano parole, neanche sguardi, ma solo un dolce tocco che ci permetteva di muoverci armoniosamente sul ritmo della musica. Così dovrebbe essere nella vita e specialmente nel matrimonio. L'uomo, con grande responsabilità, deve guidare la sua sposa nel vortice della vita in modo tale da trasformare il loro cammino in un dolce ballo. E la sposa, perché possa realizzarsi tale piacere, senza mormorii, senza lamentele, senza scatti d'ira, deve dolcemente abbandonarsi alle sue appena percepibili pressioni, in modo che bruttezze, limiti, caratteri pesanti, incapacità non vengano neppure avvertiti. Come danzando nell'armonia di un valzer si sente l'aria avvolgere il volto, così in un matrimonio equilibrato si sente il soffio dell'amore avvolgere ogni poro desideroso. 4. Vivere è come ballare perché è l'uomo a condurre. E. Difficile oggi presentare l'autorità maschile nell'ambito della famiglia e nella società, perché purtroppo l'uomo, avendo abusato del suo lecito potere, ha dato una falsa immagine dell'autorità. Eppure, l'autorità dell'uomo sulla donna è sempre valida, e lo dimostra anche il ballo. A ballare chi? Guida è l'uomo, è lui che decide quali passi di danza fare, è lui che dirige la ballerina. Solo se la donna accetta il ruolo di essere guidata, si può ballare, diversamente non vi è armonia di movimenti. Così, una famiglia può procedere armoniosamente quando la donna, meno che è stata creata come l'aiuto adatto all'uomo, accetta di essere l'elemento più appropriato per far avanzare in modo opportuno la situazione familiare. Il fatto che l'uomo abbia sempre guidato la donna nell'ambito della danza dimostra ancora una volta come naturalmente sia umano che l'uomo guidi e la donna gli permetta di farlo. Forse fino ad oggi la donna non si è resa conto di questo aspetto, e quando lo capirà molto, probabilmente alcune femministe estremiste cambieranno i ruoli di autorità. Ma a nulla vale, perché si può ballare anche con ruoli di guida diversi, ma la naturale inclinazione umana avrà sempre il suo sopravvento. 5. Vivere è come ballare, perché vi sono vari tipi di ballo. Di balli ce ne sono molti, e come se ciò non bastasse, di tanto in tanto se ne inventa qualcuno. Quindi, sapere ballare un solo passo di danza non è sufficiente per poter ballare tutti i balli. Non ti rende sereno. Così è della vita. Ciò che cerchiamo, meno io per primo meno, è la sicurezza prodotta da una esistenza metodica. Se le cose si svolgono sempre nella stessa maniera, siamo più sereni perché sappiamo come gestirle, mentre di fronte a nuove situazioni, per forza di cose, ci sentiamo venire meno la terra sotto i piedi. Cosa fare? Come mi devo comportare? È per questo che si dice che la vita è una scuola dove si impara sempre. Ci sono giorni nei quali il ballo della vita è tranquillo, calmo, come il ballo del mattone, mentre altri giorni devi girare e girare come in un valzer vertiginoso, o saltellare come con certe altre musiche. Come ogni ballo non è uguale, così ogni giorno della vita è diverso. Vivere significa sapersi adattare e ballare secondo il ritmo musicale che si presenta, per cui non potrò ballare di gioia e momenti di tristezza, o avere una marcia funebre in un giorno di festa. E Dio che decide il ritmo e onorarlo significa accettare di danzare secondo quanto da Lui imposto. 6. Vivere è come ballare perché non tutti ballano allo stesso modo. Se hai osservato chi balla, avrei notato che non tutti ballano allo stesso modo. Vi sono alcuni che ballano un lento come se fosse musica rock, altri ballano la musica rock come se fosse un lento. Nessuno replica, perché non si è costretti a ballare tutti nella stessa maniera, si è infatti liberi di esprimersi a piacimento davanti ai diversi ritmi musicali. Così è nella vita. Ci sono persone che nel suono della musica delle difficoltà sono pressati da ogni parte e perdono la testa, altri invece le affrontano con serenità e razionalità. Un documentario riferiva di una certa tribù dove, quando una donna partorisce, è l'uomo a urlare a più non posso. Sembra che non ci sia una regola precisa per ogni cosa. Questo dovrebbe portarci a fare una riflessione, e cioè la necessità di non giudicare chi vive in modo diverso dalla nostra cultura. L'altro giorno, nel guardare alcune tombe nel cimitero, ho visto che qualcuno aveva posto sulla lapide un frutto. Cosa un poco strana, perché si è sempre portati dei fiori, ma ognuno è libero di esprimersi come vuole. Il suono che produce la morte è sempre quello del dolore, ma mentre alcuni piangono, altri ridono. Quando io sarò morto, vorrei che tutti ridessero e facessero festa con dei dolci, perché se sono presenti al mio funerale significa che compiono un gesto di amore, ma se veramente mi amano dovrebbero rallegrarsi perché io sono più felice di loro, dato che sarò alla presenza reale di Cristo. 7. Ridere è come ballare, perché è bello anche vedere gli altri impegnati nella danza. La vita che sto vivendo è veramente bella, ma non sarebbe così bella se fossi solo. Perciò devo confessare che parte della mia gioia sta nell'osservare gli altri. Mi piace vedere come gli altri parlano, come si muovono. Mi piace vedere quando ridono, quando sono imbarazzati, senza contare come mi piace osservare gli sguardi delle persone. Com'è bella la musica della vita. Ho dei nipotini e il mio cuore di tanto in tanto compie un balzo di gioia quando li osservo, quando ridono, quando scoprono la realtà della vita. Il primo nipotino, Simone, quando era piccolo puntava il ditino, quando notava qualcosa di diverso, e nell'osservare il ventilatore diceva «ba, ba, ba, sarà». La seconda, quando era sul seggiolone, teneva sempre d'occhio gli assalti violenti di Simone, mentre Nicole, quando incontrava qualcuno a passeggio, sorrideva sempre al punto che la gente rimaneva ammaliata. Sì, vivere è come ballare, perché si ascolta la musica, perché si balla da soli e in compagnia, perché vi sono vari tipi di balli, che è l'uomo a condurre la danza, ma soprattutto perché non tutti ballano allo stesso modo ed è piacevole osservare la vita come Dio l'ha creata. Non a caso sta scritto «Lodatelo con il timpano e le danze», ISL 154. Non lo so se in cielo si ballerà, ma ci sarà tanta gioia che difficilmente si potrà stare fermi, e allora io sarò il primo a ballare e chiedere di ballare, perché, per quanto ho capito, maschio e femmina ci saranno per l'eternità, dato che ambedue sono stati creati a immagine di Dio. E, come dice la parola di Dio, e cantando e danzando diranno «Tutte le fonti della mia gioia sono in Dio», ESL 87.7, dicembre 2007, Ellero.